Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 4 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Efeso. Leggerò alcuni versetti, precisamente leggerò i versetti che vanno dall'undicesimo al sedicesimo. Capitolo 4 degli Efesini, dal versetto 11. Così dice l'Apostolo Paolo, apostolo e dottore dei Gentili, in fede e in verità. Ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figliolo di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che, seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Dio ha fatto dei doni agli uomini e appunto perché sono doni, non si meritano, non si guadagnano, non si possono, non ce ne si può appropriare facendo opere buone, opere meritorie, nella maniera più assoluta. Tra questi doni, naturalmente, perché i doni che Dio fa agli uomini sono tanti, allora tra questi doni ci sono i doni di ministerio, che appunto non hanno tutti nella Chiesa, perché qui stiamo parlando naturalmente della casa di Dio, di ciò che Dio opera nella sua casa, che è colonna e base della verità. Naturalmente nella sua casa non tutti ricevono questi doni da Dio, ma solo alcuni. Li ricevono questi doni quelli che sono stati predestinati a riceverli. Quindi stiamo parlando di questi doni di ministero, il dono di apostolo, il dono di profeta, il dono di evangelista, il dono di pastore, il dono di dottore. Sono doni, quindi, lo ribadisco per l'ennesima volta perché è molto importante questo, perché ci sono degli scellerati che vanno in giro dicendo e facendo capire che il ministero ce lo si merita pregando, digiunando e così via. Nella maniera più assoluta non è così, altrimenti non sarebbero più chiamati doni di ministero, non si parlerebbe più di doni fatti da Dio agli uomini. Ma come voi sapete, ciò che la Scrittura chiama dono c'è chi l'ha trasformato in salario, perché il diavolo è l'avversario e istiga veramente a ribaltare tutto e ad annullare o trasformare la verità di Dio in menzogna. Quindi badate a voi stessi, perché questi soggetti pericolosissimi sono in mezzo alle chiese. Allora, la Scrittura dice che è lui che ha dato, quindi non sono scuole bibliche o università che appunto danno questi doni, sono dati dal Signore. Allora qualcuno potrebbe dire, ma come facciamo praticamente a essere poi sicuri che il Signore ha dato questo dono a quel fratello? È molto, molto semplice. Ogni ministero ha delle caratteristiche ben precise e quando il ministero è dato dal Signore, il Signore lo conferma. Lo conferma nella Chiesa e fa sì in modo che i santi riconoscano che quel fratello ha ottenuto quel ministero. Facciamo un esempio: se il Signore costituisce un fratello profeta, poi la Chiesa chiaramente riconoscerà che quel fratello è stato stabilito profeta da parte di Dio. Perché? Perché ha visioni, ha sogni e Dio gli rivela determinate cose che corrispondono a verità. Per esempio, gli può rivelare l'identità di qualcuno, per esempio di qualche infiltrato in mezzo alla Chiesa, perché voi sapete che ci sono infiltrati in mezzo alla Chiesa. Il Signore può rivelare appunto al profeta che Tizio, per esempio, è un falso fratello. Ancora prima che si manifesti, il Signore lo può rivelare al profeta, affinché il profeta avverta la Chiesa di guardarsi da quell'infiltrato. Il Signore può dire a un profeta, per esempio, può fargli preannunziare un evento, preciso, un particolare evento del futuro, la nascita, per esempio, di un bambino, o per esempio la morte di qualcuno. Queste poi predizioni puntualmente si verificano perché, appunto, dato che sono state date da Dio, il Signore vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Vi ho fatto alcuni esempi per farvi capire, appunto, come poi la Chiesa, nel vedere che il Dio parla tramite visioni e sogni o con una voce audibile a quel fratello, naturalmente quel fratello esplicherà il ministero di profeta e la Chiesa lo riconoscerà che Tizio è stato costituito profeta dal Signore. Naturalmente il Signore conferma sempre i suoi ministri nel ministero che gli ha dato. Quindi l'apostolo sarà confermato dal Signore, il profeta sarà confermato, l'evangelista sarà confermato, il pastore sarà confermato e anche il dottore sarà confermato dal Signore, perché d'altronde questi sono appunto incarichi che dà il Signore e Dio. Quindi è del tutto normale che il Signore confermi i suoi ministri. Ebbene, questi ministeri appunto vengono dati dal Signore. Oggi c'è una purtroppo corsa ad andare alle scuole bibliche, alle università bibliche, ai college biblici, perché fanno credere che il ministero si riceve appunto alla scuola biblica. Tutto ciò è falso, veramente è falso, perché appunto il ministero viene dato dal Signore. Io ricordo quando, molti anni fa, stiamo parlando della seconda metà degli anni Ottanta, quando appunto ero indeciso se andare a una scuola biblica o meno, sapendo che il Signore mi aveva appartato per l'Evangelo, mi aveva chiamato a predicare la sua parola. Io naturalmente avevo in cuore il forte desiderio di prepararmi e quindi di investigare le scritture. E che cosa avevo fatto? Mi ero informato di alcune scuole bibliche, sia in Inghilterra che in America. E mio papà, mi ricordo, era disposto a pagarmi proprio tutto il viaggio, anche verso l'America, tutto il periodo che avrei speso avrei trascorso in questa scuola biblica che avevo adocchiato. Quindi avevo, da un certo punto di vista, avevo i miei genitori che erano dalla mia parte, però io non ero assolutamente sicuro di questo. Infatti mi ero anche fatto mandare dei dépliant da una o più scuole bibliche, non ricordo se una sola o più di una, dall'America. E però mi ricordo che ogni volta che leggevo il programma di questa scuola biblica, veramente rimanevo turbato, perché nonostante io volessi conoscere approfonditamente la parola di Dio, c'era in me un turbamento che si veniva a creare quando appunto mi trovavo davanti la scuola biblica. E allora, siccome che io volevo essere sicuro di fare la volontà di Dio, chiesi al Signore chiese al Signore un sogno. Chiese al Signore un sogno, entra uno a particolare data, e disse al Signore: se entro questa particolare data non mi dai un sogno, io partirò per la scuola biblica, ero deciso. E il Signore, nella sua grande benignità, si compiacque di rispondermi e mi diede un sogno. E mediante quel sogno compresi che il Signore non voleva che io frequentassi appunto una scuola biblica. E naturalmente poi riferì questo ai miei genitori, i quali naturalmente rimasero meravigliati. E alla domanda: ma sei sicuro? Io risposi: sì, sono sicuro, e Dio non vuole che io frequenti una scuola biblica. Il Signore opererà, disse a loro, opererà in modo, appunto, in me, in modo da rendermi capace a, diciamo, predicare la sua parola. Il Signore sarà Lui che mi darà conoscenza e mi confermerà, appunto, nella chiamata. E così è avvenuto. Ecco perché dico sempre: se sei stato chiamato da Dio a predicare la sua parola, non hai bisogno di iscriverti ad alcuna scuola biblica. Anzi, le scuole bibliche sono dannose, infatti io le chiamo scuole antibibliche, perché sono tutte in mano alla massoneria o a massoni, e praticamente istradano gli studenti, al relativismo dottrinale, all'ecumenismo, al dialogo interreligioso. Più o meno tutte le scuole bibliche oramai immettono principi massonici, diciamo, nella mente degli studenti. Sostanzialmente succede che se un credente va alla scuola biblica sano, esce malato, esce corrotto sostanzialmente. Ecco perché io scoraggio veramente fortemente i credenti che sono chiamati da Dio a predicare la parola, ad iscriversi alle scuole bibliche, perché le scuole bibliche sono create per distruggere in particolare i giovani, per distruggere la fede. E naturalmente si vede, diciamo, dai fatti, da quello che vediamo, possiamo veramente affermare con assoluta certezza che le scuole bibliche servono proprio per distruggere le chiese, o comunque per cercare di distruggere le chiese, per far accettare alle chiese un altro Vangelo e una dottrina diversa. Ma basta vedere le scuole bibliche delle denominazioni protestanti e anche delle denominazioni pentecostali. Escono dei giovani a cui vengono date delle chiese che non sanno neppure cosa sia l'Evangelo, infatti non lo predicano l'Evangelo. Giusto un po' per citare diciamo una di queste falle che ritroviamo poi in questi giovani. Gli fanno credere praticamente che l'Evangelo è tutt'altro, è qualcosa di completamente diverso da quello che predicava l'Apostolo Paolo e che Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, e questo si vede. Infatti, dove sono coloro che predicano l'Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono coloro che dicono chiaramente che cos'è l'Evangelo, che cosa è rivelato nell'Evangelo, che dicono appunto che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato? Dove sono? Sicuramente non sono, se c'è qualcuno che lo predica, e c'è, sicuramente non è che l'ha imparato alla scuola biblica, perché alla scuola biblica si impara tutt'altro, si imparano menzogne di ogni genere. Ebbene, dopo questa, diciamo, breve introduzione, diciamo anche questo. Allora, lo scopo per cui il Signore ha dato questi doni di ministero è chiaramente espresso dall'Apostolo Paolo: per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Quindi questi ministri operano per la grazia di Dio, che è con loro, peraltro, e che si vede, per il bene della Chiesa. D'altronde la Chiesa è il corpo di Cristo. Dio ama la sua Chiesa. Il Dio procaccia il bene della sua Chiesa, perché il Dio ha comprato la sua Chiesa, è il suo tesoro particolare. La Chiesa è il popolo di Dio. Appunto, la Chiesa è il corpo di Cristo, di cui il capo supremo è Gesù Cristo. E noi, appunto, siamo tutti membri di questo corpo. Però tra questi membri, appunto, il Signore ha chiamato alcuni ad adempiere una particolare mansione. E quindi gli ha dato, diciamo, un ministero. Quindi vedete che lo scopo per cui il Signore ha fatto questi doni agli uomini è un buon scopo. E naturalmente Paolo ci dice anche finché tutti siamo arrivati all'unità della fede, della piena conoscenza del figliolo di Dio, allo stato d'uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Vedete dunque i ministeri a cosa servono? Servono a far arrivare i santi all'unità della fede, E poi della piena conoscenza del figliolo di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Quindi i ministeri sono importanti. L'importanza di ciascuno di questi ministeri non è, diciamo, da sottovalutare, Perché il Dio veramente ne parla in termini molto significativi. Bisogna prestare molta attenzione a quello che dice l'Apostolo Paolo sui ministeri. E poi dice, appunto, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Già, perché quando si arriva allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, succede che si smette di essere dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina. Già, soffiano dei venti. Dove soffiano? Soffiano contro la Chiesa di Dio. Questi venti soffiano dentro la Chiesa di Dio. Noi vediamo questi venti di dottrina soffiare all'interno delle chiese. E coloro che sono dei bambini pur ora nati, dei bambini in Cristo, cosa succede? Siccome che non sono radicati nella verità, succede che sono sballottati e portati qua e là. Avete mai visto un'onda del mare? Ecco, questi credenti sono come dei bambini sballottati e portati qua e là. Da che cosa? Da ogni vento di dottrina. Infatti le onde vengono portate qua e là dai venti. Ecco, ci sono dei credenti che sono proprio portati qua e là. Da che cosa? Da che cosa? Da ogni vento di dottrina. E quante dottrine false, infatti, ci sono in mezzo alle chiese. Io sono decenni che confuto le false dottrine, o questi venti di dottrina, che appunto soffiano in mezzo alle chiese. Ricordo che fino a quando confutavo le eresie del New Age, questo lo voglio diciamo ricordare. Voglio dire questo, che fino a che ho confutato le eresie distruttrici del movimento New Age, o eresie distruttive dei mormoni, o quelle della Chiesa Cattolica Romana, o degli avventisti, o dei testimoni di Geova, beh, allora lì diciamo che molti evangelici mi guardavano abbastanza con favore. Nel momento in cui ho cominciato a confutare le false dottrine che diciamo venivano e vengono insegnate tuttora in seno alle chiese evangeliche, allora lì mi sono fatto veramente la maggior parte degli evangelici nemici, ma per avergli detto la verità, perché quando ho cominciato a confutare il cosiddetto rapimento segreto, il libero arbitrio, l'imposizione della decima, il messaggio della prosperità e poi tante altre false dottrine, Lì mi sono fatti veramente tanti e tanti e tanti nemici, ma me li sono fatti a cagione della verità che ho predicato e che predico, quindi mi rallegro nel Signore. Ma appunto vi stavo dicendo che oggi soffiano veramente tanti venti dottrina, come anche soffiavano decenni fa, eh? Anche quando io ho cominciato a confutare pubblicamente le false dottrine, c'erano tante false dottrine. Certo, adesso sono molto più diffuse e da un certo punto di vista sono anche molto più, diciamo, visibili, perché chiaramente internet dà una grande visibilità anche a coloro che predicano e insegnano le false dottrine. Per cui, diciamo, voglio dire, l'esistenza delle false dottrine è una realtà che va affrontata, con la grazia di Dio, perché le false dottrine sono una minaccia, sono un pericolo, sono false. Le false dottrine non hanno niente a che fare con la verità, perché le false dottrine sono menzogna. E vedete che i ministeri hanno questo, diciamo, questo obiettivo di far sì che i credenti non siano più dei bambini sballottati e portati qua e là ad ogni vento di dottrina. Capite quanto sono veramente importanti i ministeri? Certo, tra questi ministeri, in particolare il ministero di dottore, è quello che naturalmente si occupa, si concentra molto, a combattere le false dottrine, confutandole sia privatamente pubblicamente. Ed è per questo che chi ha ricevuto il ministero di dottore è particolarmente odiato da coloro che insegnano eresie distruttive, perché coloro che insegnano eresie distruttive si vedono smascherati, si vedono confutati pubblicamente. Ma d'altronde, pubblicamente diffondono il loro veleno e noi pubblicamente diffondiamo l'antidoto al loro veleno. Noi appunto non combattiamo contro gli uomini, sia chiaro questo, voi lo sapete, chi mi conosce lo sa. Noi, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Il nostro combattimento è contro Satana, che è bugiardo e padre della menzogna, e che è il seduttore di tutto il mondo. Chi è colui che seduce tutto il mondo? Il diavolo. Chi è colui che cerca di sedurre i santi? Il diavolo. Ricordate il serpente antico sedusse Eva con la sua astuzia? Cosa sta cercando di fare ancora oggi il diavolo? Sta cercando di sedurre con la sua astuzia i santi, con le sue tante menzogne, con i suoi tanti venti di dottrina, che è lui che genera, il generatore di questi venti di dottrina è il diavolo, perché il diavolo prende piacere, che nella Chiesa ci sia confusione, che nella Chiesa venga insegnato ciò che è il contrario alla verità, capite? Il diavolo sa che la Chiesa è colonna e base della verità e quindi attacca la Chiesa, perché la Chiesa si leva in favore della verità e allora lui naturalmente cerca di distogliere la Chiesa dalla verità, mandando questi venti di dottrina. E come li manda? Tramite i suoi ministri, perché come il Signore ha i suoi ministri, così anche il diavolo ha i suoi ministri, che operano in maniera fraudolenta, sono pieni di ogni frode e sono pieni di astuzia, pieni di astuzia, sono astuti. E infatti la Sacra Scrittura, vedete che, di che cosa, come ne parla? Parla dell'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Ecco, questo è quello su cui voglio oggi concentrarmi, l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Avendo studiato decine e decine di religioni, decine e decine di sette, naturalmente studiate per confutarne le false dottrine, mi sono imbattuto nell'astuzia del serpente antico. E naturalmente io, dato che ho imparato grazie a Dio, a discernere l'astuzia loro, cioè di questi uomini, nelle arti seduttrici dell'errore, è chiaro che io vengo in vostro aiuto perché voglio aiutarvi a capire come fanno, come agiscono questi ministri di Satana in mezzo alla Chiesa, perché sono in mezzo alla Chiesa travestiti da ministri di Cristo, come fanno a sedurre le anime. D'altronde io vi ricordo che gli apostoli mettevano in guardia da coloro che seducevano: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, vi ho scritto queste cose intorno a quelli che cercano di sedurvi. Cioè, fratelli nel Signore, ma voi cosa vi pensate? Che non c'è nessuno che cerca di sedurvi? State attenti, perché esistono quelli che cercano di sedurvi e si presentano come evangelici o come cristiani. Pace, fratello! Ma quale pace? Questi hanno la guerra dentro, quale pace? Sono empi, sono senza pace, però si presentano come fratelli. Ma poi naturalmente li riconoscete dai venti di dottrina che escono dalla loro bocca. È già, proprio così. Perché loro queste false dottrine ce le hanno dentro il loro tesoro malvagio, dentro il loro cuore malvagio, e quindi prima o poi le tirano fuori, capite? E naturalmente queste false dottrine attecchiscono tra coloro che sono instabili, tra le anime instabili, perché non attecchiscono invece tra coloro che sono fermi, radicati nella fede e nella verità. Però siccome che nella Chiesa ci sono anche i bambini, non ci sono solo coloro che sono maturi, chiaramente è mio dovere mettere in guardia la Chiesa da questi, da questi seduttori di menti, perché la scrittura li chiama così, affinché essi non cadano vittima di questi seduttori di mente. Notate, loro seducono la mente, perché una volta che il diavolo si appropria della mente di un credente, gli fa credere qualsiasi cosa, gli fa fare qualsiasi cosa che vuole. Ecco perché dobbiamo vigilare, e appunto cingere i lombi della nostra mente con la verità, per impedire a questi seduttori di menti di sedurci, perché costoro, guardate che meditano giorno e notte come fare per sedurre i santi dell'Altissimo, perché costoro sono dal diavolo. Ricordatevi, il diavolo è bugiardo e padre della menzogna. Quindi coloro che insegnano menzogne sono dal diavolo, coloro che annunciano un altro Evangelo, coloro che sovvertono l'Evangelo di Cristo, coloro che insegnano una dottrina diversa, non sono dei nostri, sono da parte del diavolo. Oh, li riconoscete dalle loro menzogne spudorate, clamorose, che escono dalla loro bocca, Osservate attentamente quello che esce dalla loro bocca. Lo ripeto, quelli non sono errori grammaticali, quelli sono venti di dottrina, sono eresie distruttive. Non vi fate ingannare da questi servi del diavolo, che poi sono capaci, una volta che voi li smascherate, ma vi attaccate a errori grammaticali. Ma quali errori grammaticali? Joseph Smith non faceva mica errori grammaticali, e se ne faceva, vabbè, è normale che si facciano errori grammaticali, tutti noi incorriamo prima o poi in qualche errore grammaticale. Joseph Smith, il fondatore dei mormoni, insegnava che Gesù era il fratello di Satana. Joseph Smith insegnava il battesimo per i morti, il battesimo dei vivi per i morti. Joseph Smith era contro la Trinità, Joseph Smith insegnava la salvezza per opere. Capite? Questi uomini fraudolenti, naturalmente, quando vengono smascherati, cercheranno in tutte le maniere di sminuire quello che loro naturalmente di falso insegnano. Però voi state fermi, non vi fate ingannare dalle loro ciance. Sono delle persone che veramente, quando ci parlate, sembra che parlate col diavolo. Parlare con loro è come parlare col diavolo. Torcono le vostre parole, vi vogliono far credere che avete capito una cosa per un'altra, quando invece non è così. Io li ho affrontati questi servi del diavolo, vi posso assicurare che quando si parla con loro, li si deve ammonire rimanendo fermi, perché è come parlare al diavolo, bisogna resistergli in faccia, perché loro cercano fino alla fine di farti credere che tu hai capito male, invece no, hai capito benissimo. Solo che questi qua sono gente dal diavolo, questi qui per loro dire le bugie è come respirare, è come bere acqua, capite? Per loro dire le menzogne non è un problema, è un dovere, capite? Ecco perché io vi continuo a mettere in guardia da coloro che appunto sono operai fraudolenti, da coloro che usano l'astuzia per sedurre. Allora, sono chiamate arti seduttrici dell'errore. Arti, cosa vi fa pensare? Avete mai, per esempio, c'è la scuola delle arti, no? Ci sono delle facoltà dove si studiano delle arti, eh? Ebbene, costoro, che appunto hanno l'astuzia del diavolo dentro, proprio il loro corpo, usano le arti seduttrici dell'errore. Ma come? Esistono le arti seduttrici dell'errore? Sì, sì. E come? D'altronde, per esempio, le donne malvagie, le meretrici, hanno anche loro l'arte della seduzione, chiamata così, sapete? È chiamata così, l'arte della seduzione. Sanno come fare a sedurre gli uomini. Quindi sta all'uomo stare attento e non cadere vittima della loro seduzione. E così è nella Chiesa. Costoro usano arti seduttrici dell'errore, notate, perché vi vogliono indurre a professare l'errore, ad abbandonare la verità per accettare l'errore. E quindi bisogna conoscere queste arti seduttrici dell'errore. Io ve ne voglio appunto presentare alcune, non tutte, attenzione, però alcune ve le voglio presentare. Allora, una di queste arti seduttrici, che usano questi uomini fraudolenti, astuti come il diavolo, per naturalmente cercare di introdurre in mezzo alla Chiesa le false dottrine, è quello di presentare allegorie. L'arte di allegorizzare, diciamo, è un'arte antica. Allora, sia chiaro, non è che tutte le allegorie sono sbagliate, perché pure l'Apostolo Paolo, per esempio, ai Galati, parla appunto di un senso allegorico, no? In merito a determinate cose che dice le quali cose hanno un senso allegorico, cioè un senso spirituale. Quindi il fatto che Paolo abbia detto questo vuol dire che ci sono cose che hanno un senso allegorico. E fin qua va bene. Infatti, il senso allegorico che Paolo dà ad Agar e a Sara, cioè alla schiava e alla donna libera, è un senso allegorico corretto biblicamente. Ma attenzione, perché ci sono sensi allegorici che sono completamente errati, praticamente che vengono usati per introdurre appunto false dottrine. Quindi lo ribadisco per l'ennesima volta, non tutti coloro che, diciamo, dicono un'allegoria, non necessariamente quell'allegoria è falsa, può essere anche un'allegoria corretta, quindi va naturalmente esaminata attentamente alla luce delle scritture per stabilire se sia diciamo, corretto quel senso allegorico che viene dato, per esempio, a quel personaggio biblico, a quell'evento biblico e così via. Bisogna esaminare. Però, ribadisco, tra tutti i sensi allegorici che si sentono, molti, se non la più grande maggioranza, la stragrande maggioranza, sono sensi allegorici falsi che vengono usati per introdurre false dottrine. Per esempio, voi sapete che ci sono pastori che dicono che il fuoco dell'Hades, o meglio, la fiamma di cui parlò il ricco mentre si trovava nell'Hades, dicono che quella fiamma ha un senso allegorico. Rappresenta il tormento dell'anima nell'aldilà, il tormento dell'anima del peccatore, ma dicono non è un tormento prodotto da un vero fuoco, perché quel fuoco va ha un senso allegorico. Ecco perché appunto i seduttori di menti vi vengono a dire che questa storia raccontata da Gesù, alcuni peraltro usano il termine parabola, però ci sono quelli ancora più furbi che dicono no, non è una parabola, è una storia, però Gesù ha usato un linguaggio allegorico, metaforico. Ecco, lì allora dovete stare attenti, perché dove vi vogliono portare? Vi vogliono portare a negare la realtà del fuoco dell'inferno, ma è un fuoco allegorico, è un fuoco spirituale, capite? Quindi praticamente chi va all'inferno è tormentato da un fuoco spirituale. Ma quando mai? Ma il fuoco che c'è nell'Hades è un vero fuoco. Allora state molto attenti appunto al senso allegorico che danno, diciamo, molti, perché dietro quelle allegorie si nascondono eresie di perdizione. Il metodo allegorico fu usato molto dagli gnostici eretici, veramente oltremodo, che negavano che Gesù era il Cristo, i quali proprio si dilettavano nel spiritualizzare, allegorizzare praticamente un po' di tutto. E dicevano delle cose assurde tramite le loro allegorie, no? Tratte per esempio da parole di Gesù, gesti di Gesù o eventi della vita di Gesù. Tutto veniva allegorizzato. State attenti appunto a tutti coloro appunto che sembra che abbiano frequentato una scuola di allegorie. Stanno sempre allegorizzare tutto. Infatti una cosa che io mi ricordo quando mi sono convertito era questa: cominciai a notare che praticamente sul senso letterale di quello che sta scritto non predicava quasi nessuno, tutti quanti dietro a queste allegorie, ma io dicevo, ma possibile mai che ciò che è scritto chiaramente non lo predicano? E si inventano, introducono tutti questi sensi allegorici. Mi cominciava a dare veramente fastidio, e poi adesso ho capito, perché il metodo allegorico è usato molto nella massoneria. Siccome che molti pastori sono massoni, usano appunto proprio il metodo allegorico che usano i massoni nelle logge, che anche loro, diciamo, praticamente usano molto la simbologia, e anche il dare, per esempio, significati nascosti a determinate cose, è proprio della massoneria. Praticamente questi predicatori massoni, quando leggono un versetto della scrittura o un episodio della scrittura, voi noterete che cercano di introdurre un significato nascosto, che praticamente loro dicono in altri termini, beh, questo non va preso letteralmente, attenzione, questo non va preso letteralmente, va preso simbolicamente, in senso spirituale, e in questa maniera vi allontanano dal senso letterale della scrittura. Poi naturalmente nella loro astuzia vi dicono, quando tu prendi le cose in maniera letterale, ti dicono, fratello, ma la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Sì, ma queste parole non hanno assolutamente il significato che gli danno loro. Loro vorrebbero dirti che tu, interpretando letteralmente quello che leggi, cioè accettando il significato letterale di quello che sta scritto, tu praticamente vieni ucciso dalla lettera. Ma può essere mai? Ma può essere mai? Non è così. Non è assolutamente così. Praticamente lì l'Apostolo Paolo, dato che appunto ci sono, ve lo spiego, perché queste parole, questi qua le usano spesso, infatti le usano molti massoni queste parole, no? La lettera uccide ma lo spirito edifica. Queste parole usate dall'Apostolo Paolo nella sua seconda epistola ai Santi di Corinto, praticamente sta facendo un paragone tra l'Antico Patto e il Nuovo. Allora, l'Antico Patto è la lettera, è lo spirito praticamente è il Nuovo Patto, no? È il ministero dello spirito è chiamato, capite? Il nuovo patto. Allora, mentre l'antico patto uccideva, in che senso uccideva? La legge uccideva, leggiamo infatti al capitolo 7, il peccato colto all'occasione per mezzo del comandamento mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Talché la legge è santa, il comandamento è santo, è giusto e buono. Allora, praticamente, quello che dovete sempre tenere presente è che il peccato ha usato il comandamento della legge per praticamente produrre la morte. Avete capito? Nell'uomo. Quindi, la legge praticamente non ha fatto altro che produrre la morte, o meglio il peccato usando la legge, no? Ha prodotto la morte. Allora in questo senso la lettera uccide, la legge sostanzialmente, ma lo spirito vivifica, cioè il ministero dello spirito, cioè il nuovo patto. Quindi costoro usano queste parole per allontanarvi dal senso letterale delle parole di Gesù, delle parole degli apostoli, e vi vogliono cercano di farvi sentire in colpa, a voi che appunto credete proprio nella letteralità di quello che hanno detto Gesù e gli apostoli. Ma voi fate bene, fratelli, a credere nella letteralità, invece dovete rigettare le allegorie di questi impostori, e c'hanno sempre sulla bocca queste parole, la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Ma perché? Perché a loro dà fastidio la parola di Cristo, a loro dà fastidio la parola dell'Apostolo Paolo, la parola dell'Apostolo Giovanni, e allora cercano appunto di allontanarvi proprio dalle loro epistole. Credetemi, è così, l'ho constatato dopo tanti anni, lo posso gridare dai tetti, questi infatti sono riusciti ad allontanare le chiese dall'Evangelo. Capite? Quindi state molto attenti a quelli che stanno sempre ad allegorizzare. Questo è un senso spirituale. Oh, ma qualcosa che c'ha un senso letterale ci sarà mai? Sembra quasi che veramente tutto quello che c'è scritto nella Bibbia abbia un senso spirituale, certo, loro in questa maniera vogliono naturalmente presentarsi alle chiese come quelli che sono spirituali, quando invece sono carnali, diabolici, dediti alla menzogna, alle arti seduttrici dell'errore. Sì, proprio loro che si spacciano per spirituali, sono una massa di malvagi, che con i loro sensi allegorici fasulli introducono ogni sorta di falsa dottrina. Un'altra arte seduttrice dell'errore è quello di fare ricorso al greco, all'ebraico. Ora voi sapete che l'Antico Testamento, i libri dell'Antico Testamento, quelli che praticamente vanno dalla Genesi a Malachia, sono stati scritti in ebraico, mentre i libri del Nuovo Testamento sono stati scritti in greco. Allora, questi qua, siccome che gli dà fastidio l'Evangelo a questi uomini malvagi, gli dà fastidio l'Evangelo, la sana dottrina che insegnano gli apostoli, allora devono chiaramente falsare il senso di quello che è scritto. Cioè, far cambiare significato a ciò che è scritto. E come fanno? Praticamente, quelli tra di loro che hanno studiato un po' il greco e l'ebraico, cominciano a dire, ma qui, fratelli, il greco non vuole, quando si parla del Nuovo Testamento. Ma qui il greco non vuole dire questo, ma vuole dire quest'altro. Poi leggono dei passi, dei versetti dell'Antico Testamento e dicono: no, ma qui l'ebraico non vuole dire questo, vuole dire quest'altro. Praticamente qui avremmo, in base al loro modo di vedere le cose e di presentare le cose, come se la Bibbia che ci abbiamo nelle mani è assolutamente inaffidabile. Perché i traduttori hanno tradotto veramente fiaschi, praticamente nella maggior parte dei casi, fiaschi a posto di fischi, no, per dire, capite? Cioè loro sanno tutto, loro sanno tutto praticamente, no? Ma che cosa succede? Quando vai poi a sentire il significato del loro greco e del loro ebraico, attenzione, uso appositamente questa espressione, ti rendi conto che questi sono dei diavoli, questi sono dei serpenti, perché con quel greco e con quell'ebraico ti stanno praticamente... stanno annullando la parola di Dio e fanno dire proprio alla scrittura una cosa contraria a quella che dice Dio. Ecco perché sono molto importanti i ministri, perché i ministri hanno naturalmente un discernimento, che Dio gli dà, nonché anche una conoscenza che non hanno tutti. Prendete per esempio l'apostolo Paolo, che era l'apostolo e dottore, e i ministri naturalmente sono quelli che si avvedono subito del pericolo, della minaccia e suonano la tromba, suonano il corno, capite? Per mettere in guardia la Chiesa da questi che appunto ricorrendo alla lingua originale in cui gli scritti sacri sono stati appunto redatti, ecco che vi cominciano a dire: sapete, ho fatto una grande scoperta, sì, perché presentano più o meno le cose, il greco, l'ebraico, ma sapete cosa significa? E praticamente quelle spiegazioni fasulle che danno servono a questa gente per annullare quei versetti della scrittura che distruggono proprio dalle radici le loro false dottrine. Avete capito? Ma quello non conosce il greco e l'ebraico. Capito? Poi dicono così. Bisogna conoscere il greco e l'ebraico per comprendere le scritture. Già, certo. Sì, allora tutti li mandiamo a studiare, mandiamo tutti i credenti a studiare il greco antico, l'ebraico antico, perché se no non possono capire le scritture. Ma a me non risulta tutto ciò. A me non risulta tutto ciò. L'apostolo Paolo esortava Timoteo a tagliare rettamente la parola della verità, perché la parola della verità va tagliata rettamente, altrimenti si rimane confusi. E questi qua, infatti, proprio di tagliare rettamente la parola della verità non ne vogliono sentire parlare. Loro devono introdurre a tutti i costi le loro eresie e quindi creano un'aspettativa nel loro uditorio, perché questi fanno le conferenze, si spostano di qui, si spostano di là. Questa sera vi farò sapere il vero significato del greco e dell'ebraico, di questo e di quell'altro. Cioè, praticamente, alla fine, quando vai a sentire questi, vai a sentire un'altra Bibbia. È come se andassi a sentire persone che hanno nelle mani un'altra Bibbia, sì, perché loro praticamente trasformano la verità di Dio in menzogna, usando appunto l'arte seduttrice del greco antico e del ebraico antico. Naturalmente i traduttori per tradurre la Bibbia hanno dovuto studiare il greco e l'ebraico, quindi non è che siamo contrari a studiare il greco e l'ebraico, però lungi da noi a dire che per comprendere le scritture bisogna conoscere il greco e l'ebraico, perché non è assolutamente così. Non è assolutamente così, fratelli nel Signore, e questo si vede da tutti questi predicatori che appunto con le loro slide proiettano appunto nelle sale il greco, l'ebraico, fanno lezioni di greco e di ebraico per introdurre le loro eresie distruttive. Infatti i loro ragionamenti sono perversi. Senti un turbamento quando li senti parlare, ma perché? Perché praticamente loro, il greco e l'ebraico, lo usano per torcere le scritture a loro perdizione. Falsano proprio il senso di quello che è scritto Facendo credere, purtroppo ci sono quelli che ci credono, che il greco lì non dice così, e l'ebraico lì non dice così. Avete capito? Questi qua sono capaci di tutto, ricordatelo, sono spietati, a questi della salvezza dell'anima vostra non interessa proprio niente. Allora, un altro metodo, comunque un'altra arte seduttrice è quella appunto della rivelazione. Ah, lo Spirito Santo mi ha rivelato che qui Dio ha voluto dirci che ho ricevuto dal Signore una rivelazione in merito a questa scrittura. Non l'avete mai sentita questa rivelazione, ve la porto io, non hanno capito niente le chiese fino adesso, io c'ho una rivelazione che me l'ha data il Signore, venite, l'ingresso è libero. Poi naturalmente c'è la vendita dei loro libri, la raccolta o l'accattonaggio, no? Poi c'è un accattonaggio, perché ormai la raccolta delle offerte va chiamata accattonaggio. E allora praticamente questi qua usano queste espressioni per impressionare l'uditorio, perché ci sono credenti che appena sentono dire che quel pastore ha avuto una rivelazione, poi gli viene la pelle d'oca, cominciano a dire Dio gli ha parlato, chissà cosa gli avrà detto, ascoltiamolo, chissà, e poi praticamente questo qui, qual è la rivelazione? È un'eresia. Ma sapete quanti di questi ho sentito che hanno avuto una rivelazione particolare su quella scrittura e che poi non è altro che una vecchia eresia, ma guarda, gli ha cambiato nome, ma è una vecchia eresia, però chiaramente loro devono impressionare l'uditorio con il termine, con il verbo rivelare e la parola rivelazione, capite allora come fanno questi qua? Quindi state molto attenti, Cioè praticamente questi qua vogliono far credere che hanno un rapporto con Dio così stretto, così intimo, che Dio proprio gli rivela tutto. Pensate che hanno questi qua, da come parlano, una conoscenza, una sapienza ancora superiore a quella dell'Apostolo Paolo. Pensate un po' voi. Sì, è così, perché per loro cosa vuoi che abbia capito Paolo? Paolo avrà capito qualcosa, ma loro hanno capito tutto. C'hanno di quelle rivelazioni che poi quando li senti veramente viene la pelle d'oca. Ma viene la pelle d'oca perché? Perché chi conosce quelle cosiddette rivelazioni sa che sono delle vecchie eresie distruttive. Quindi state molto attenti, fratelli e sorelle. Non guardate l'etichetta, guardate la sostanza. Perché vedete, è come se qualcuno vi vendesse una bottiglia di vino e vi dicesse questo vino è il migliore del mondo, guarda... Poi però dentro la bottiglia c'è il cianuro, state attenti, però fuori c'è scritto vino ottimo, per dire, però dentro c'è il cianuro, quindi state attenti, perché dietro queste parole, Dio mi ha rivelato, ho avuto una rivelazione di questi impostori, si nascondono eresie distruttive. Ecco, poi ci sono quelli che naturalmente, dato che gli dà fastidio l'Evangelo, gli dà fastidio la dottrina che insegniamo gli apostoli, allora ti vengono a dire, ma qui non basta prendere due versetti isolati, bisogna prendere la somma della parola, ma certo! Fatti la somma della parola e verità, dice la scrittura. Però i primi a non adottare questo metodo del fare la somma della parola sono proprio questi impostori figli del diavolo. Sono loro che io li ho studiati a questi. Ma io questi, ancora prima che parlano, io già so dove vogliono andare a parare. Già lo so. Perché non è che sono i primi che confuto. Prima di loro ne sono venuti, non sono nemmeno gli ultimi. E allora ti vengono a dire, dato che vedono che conosci la parola di Dio, che la tagli direttamente, dato che vedono che ci sono quelli che sono da Dio, ascoltano le parole di Dio, siccome sono mossi in invidia, sono pieni di omicidio questi qua, sono pieni di ingiustizia, pieni di ogni frode, di astuzia, ecco che allora naturalmente... Dicono, dicono ai fratelli, ma attenzione, perché bisogna prendere la somma della parola. Infatti, come vi stavo dicendo, è giusto prendere la somma della parola. Io ho adottato sempre questo metodo, perché è un metodo sicuro, ma loro praticamente ti dicono che fanno la somma della parola, ma non è vero, perché fanno la detrazione della parola. Questo lo tolgono, questo lo tolgono, questo lo tolgono, e che rimane la loro eresia. Appunto, che loro hanno creato da un versetto, da un versetto della scrittura, ma le sette fanno tutte così, Il Padre è maggiore di me, disse Gesù, giusto? Secondo i testimoni di Geova, la somma della parola dice che Gesù non è Dio. E questo è uno di quei versetti che, secondo i testimoni di Geova, proverebbero che Gesù non è Dio. Ma vi risulta che Gesù non era Dio? Vi risulta che Gesù non è Dio? Tutti gli angeli di Dio l'adorino. Gesù Cristo è Dio, benedetto in eterno. Quindi state molto attenti. Perché anche le sette vi vengono a dire che bisogna fare la somma della parola. Ma perché? Perché loro conoscono questi versetti della scrittura, questi servi del diavolo, li conoscono, li conoscono. Guardate che questi qua studiano il parlare di noi cristiani, i ragionamenti che noi facciamo, capito? Il nostro modo di parlare, il nostro modo di pensare, il nostro modo di predicare, ci studiano pure la notte, per fare che cosa? Per fare che cosa? Per cercare poi di allontanare le anime dalla verità del Vangelo, dalla verità di Dio, perché poi questo è il loro scopo, e portarli appunto nel fango, nella fossa di perdizione in cui si trovano loro. Capite quindi? Quindi, noi facciamo la somma della parola, non facciamo la detrazione della parola come fanno questi servi del diavolo. Perché dico che fanno la detrazione della parola? Perché poi, da questa cosiddetta somma della parola che fanno, che cosa partorisce questa somma della parola loro, questa loro somma? Eresie distruttive. E allora è evidente che loro non fanno la somma della parola. Che fanno? Che fanno? Loro usano l'astuzia delle arti seduttrici dell'errore. Lo so, fratelli del Signore, vi ho dovuto parlare di questo perché voi lo sapete che io ci tengo a che voi rimaniate saldi nella fede e nella verità fino alla fine. E vi devo mettere in guardia da coloro che in mezzo alle chiese cercano di sedurvi. È l'amore di Cristo che mi costringe a farlo. Quindi comportate questa mia breve predicazione sulle arti seduttrici dell'errore usate dai falsi ministri di Cristo per ingannare le anime instabili, e ritenetela, perché ne avrete del bene e vi servirà nel prosieguo della vostra corsa, del vostro combattimento, per discernere i venti di dottrina, appunto, che i falsi ministri di Cristo, fanno sgorgare dalla loro bocca, perché costoro sono al servizio del diavolo e quindi cercano appunto di portarvi lontani dalla verità, cercano di farvi scadere dalla grazia, cercano di farvi accettare un altro Gesù, un altro Evangelo, un altro spirito. State attenti, fratelli. State attenti. Vi ho predicato intorno a quelli che cercano di sedurvi. State saldi. Non vi lasciate ingannare. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.